Buonasera a tutti e a tutte. Questa qua è Radio Wombat con la nuova trasmissione One Tree Boots One Shoe. Io sono Granenco. Io sono NN. Siamo due scoppiati che non sanno che cazzo fare da mattina a sera. La domenica pomeriggio è qualcosa di tristissimo. Ho detto quello. E ci siamo riuniti una volta, riuniti per modo di dire, eravamo in una serata a sbronzimarci, ci siamo detti, ma facciamo una trasmissione radio su Radio Wombat, che dici? Perfetto, perfetto. Il primo pezzo è quello che sarà la nostra colonna sonora, Tempi Nuovi, dei Nabat, uno dei gruppi più importanti della scena skinheads italiano. Soprattutto. Cioè, questa prima puntata la stiamo veramente arrangiando alla meglio. Esatto. Perché è stata veramente buttata dentro in 3-4 ore questa notte tra i fumi dell'alcol. Esatto. E in questa prima puntata iniziamo a dare una lezione ai babbani dello Skinezoi. Sta calmo, dai. Allo Skinezoi. Questo è uno degli album fondamentali del punk skinheads italiano. E l'album si chiama Un altro giorno di gloria, che è stato fatto nel 1982, se non sbaglio, non mi ricordo. E la punta di quest'album è che ha venduto 2.000-2.500 copie in DIY, una cosa bellissima. Che DIY sta per Do It Yourself. Ed è dedicato a Nelson Mandela e a Marò dei Jadas, che è un gruppo punk bolognese che ascolteremo quando faremo la scena bolognese. Esatto, oggi sarà proprio generale, abbiamo messo proprio altri 10 gruppi più o meno, ma generale cui la scena non è che è soltanto bolognese, c'è sia fiorentina, romana, trentina. Sì, oggi spacchiamo il ghiaccio, dai. Esatto. E niente, andiamo avanti con la trasmissione. Ma assolutamente sì. Hai da dire qualcosa a proposito del Nabat? Stai scherzando? Potrei fare una trasmissione su Nabat. So, il gruppo che io amo. Nabat, sai da cosa deriva il nome Nabat? Cosa? Significa in russo campane a stormo. E era un gruppo anarchico ucraino attivo nel 15-18. E poi, la curiosità è che Campana Stormo è un album dei Nabat che ha fatto con la Potere Records nel 1998, dove c'è anche questa traccia che era Tempi Nuovi, che è uno dei primi LP, che è un altro giorno di gloria dei Nabat. Ottimo. Io colgo l'occasione per salutare il grandissimo Steno, il cantante dei Nabat, che non si sa ancora quanti cazzo di anni c'ha, cioè alla fine è abbastanza vecchiotto, io potremmo dire, però se diciamo, li porta bene, se esatto, li porta bene. Esatto, cammina ancora con le sue gambe, potremmo dire. E tiene uno spazio su a Bologna, a San Donato, che si chiama Il Vecchio Sonna. Quando potete fatevi un salto, perché è veramente una cosa bellissima, che tiene tre sale prove, ci organizzano anche un fottio di concerti da lui al punk, ma organizzano anche roba acustica, così, veramente uno spazio bellissimo, veramente bellissimo, naturalmente a modo di locale, non è a modo di centro sociale, anche se l'aria che si respira è quella. Aria pura, veramente, in cui tipo l'ingresso è veramente piccolissimo, stretto, no? Che mi ricordo diversi concerti, uno soprattutto me lo ricordo che era di martedì, non ricordo, mi sembra quest'anno o l'anno scorso, chi se ne scorda. Comunque ti stai dilungando, mettiamo la prossima traccia. No, io volevo dire, era un concerto della Madonna, c'erano tipo 300 persone. Tozzini, mi sembri mia suocera, dai, butta l'altra traccia. Va buono, no. Prossima traccia, sempre di un gruppo bolognese, sempre di San Donato, che sono in zona popolare, più che San Donato, diciamo bolognina, potremmo dire, e poi scoprirete perché. Prossimo pezzo, zona popolare, fino all'ultima battaglia, Radio Wombat, 1-3, Boots, 1-2. bene, questi qua erano in zona popolare con il loro pezzo Fino all'ultima battaglia, un pezzo che alla fine è stato scritto nemmeno da più di tanto, da un annetto. Il video è stato pubblicato in questo pezzo, se volete andarvelo a vedere, che difatti ci sono dei pezzettoni di questo video di un concerto al Vecchio Son, al posto di Steno di Nabat. Era stata una serata veramente stupenda, io c'ero, minchia, una figata assurda. E in zona popolare nascono da più o meno 10 anni fa con una formazione che alla fine ha messo su il disco Cielo Grigio delle zona popolare, in cui in questo disco ci sono 10 pezzi, in cui sono molti diciamo testi impegnanti a livello politico, in cui vanno pure a sdrammatizzare i PD, più va a raccontare anche varie storie della Bolognina, che alla fine è il quartiere dove girano spesso. Infatti uno poi dei fili che trarremo in questa trasmissione è quello di portare comunque la scena sharp, e quindi skinheads against race and prejudice italiana, e farla conoscere alle persone. Quindi cioè, stiamo parlando semplicemente di gruppi punk sharp. Sì, e in poche parole noi andiamo soprattutto a fare gruppi e cui appartengono alla scena oi o street punk italiana. Poi in futuro, se avremo lo sbattimento e ci ubriacheremo di meno, andiamo a fare pure quella internazionale. Qualcosa internazionale, sì. Se si farà di sicuro, abbiamo gli agganci giusti, sì, sì, a esatto. Livello internazionale, scena tedesca, scena inglese, si tirerà su. E adesso tiriamo il nuovo pezzo. Aspetta, zona popolare, visto che sono dei miei grandi amici, li volevo salutare dal primo all'ultimo, da Johnny cantante, che è sempre un personaggio abbastanza tranquillo, potremmo dire, anche se fatto modo suo. Poi Beppe, grandissimo Beppe, che da poco ha avuto la bambina, un grande personaggio che viene la famosa regione Puglia. Poi naturalmente no, ho detto anche una bella curiosità di questo gruppo, che il loro chitarrista è pure chitarrista dei Gate 84, è un gruppo che alla fine ha segnato la storia di Bologna oltre a Nabat. Che comunque vorrei ricordare a Graminco che qui non siamo a ok, il prezzo è giusto e quindi non posso salutare le persone a casa. Graminco, tira fuori un'altra tunes. Quale sarà la prossima? Allora, la prossima canzone saranno gli NCB, un vecchio gruppo di Roma, con Il giorno verrà. Radio Wombat, 1-3 Boots, 1-2. Ragazzi, questi saranno gli MCB, gruppo che, cioè, a me viene di parlare di loro dalla pancia, uno dei miei gruppi preferiti per quanto riguarda lo street italiano. E questa canzone in particolare, in quanto c'è, cioè, il contrasto tra skinheads e punk è stato abbastanza acceso negli anni 80, negli anni 90, all'interno del circuito. E quindi è una proposta di intenti sta canzone, cioè stiamo uniti e mandiamo a cagare tutto il sistema. Esatto, esatto. Gli NCB era un gruppo di Roma che ai suoi tempi, cioè ai suoi tempi si parla nemmeno di 10 anni fa, 20 anni fa. 20 anni fa. Hanno spaccato veramente il culo, se potremmo dire, vabbè. No, politically correct, esatto. Cioè, stiamo parlando di punk, graminco. Esatto. Insomma, il progetto era veramente una cosa fighissima, perché sono stati, diciamo, uno dei primi gruppi oicore a Roma. Sì, a parte sì, il gruppo famosissimo Colonia Infame, Colonia, che è stato Infame, in primis un gruppo della Madonna a quei tempi. Poi il progetto ha smesso tipo fine anni 90, e il cantante e qualcun altro della band ha seguito il progetto con un altro gruppo, che saranno i Tacita di Roma, che alla fine a livello musicale è andato a cambiare, invece che sull'hardcore è andato a fare più su noi rock and roll, che è alquanto diverso sia a livello di voce sia a livello musicale. Però premiamo l'attitudine, esatto, di tutto ciò. Esatto. E hai da dire qualcosa? No, assolutamente no, non posso parlare di questo gruppo, come ho già detto, perché è troppo nella pancia, è uno dei miei gruppi preferiti. E preferirei ascoltare un'altra canzone, perché effettivamente quando stavamo ascoltando questa canzone io stavo saltando sulla sedia. Sì, sì, un giorno verrà, è la mia canzone Skinheads, sono diventato Skinheads mediante questa canzone. Ok. Quindi, grazie per averci dato, diciamo, la possibilità di ascoltare una piccola parte della tua vita. Del mio cuoricino. Esatto. E ora andremo a ascoltarci un altro gruppo che però con la scena skinheads c'entra abbastanza poco, che sono i Suburban Prowl. Era un gruppo di Trento che si parla di tutta gente con creste, quindi per Spike, ritornare per creare proprio un link con questa canzone, che skinheads e punk e are united. Esatto, che purtroppo in diversi luoghi del mondo questa scena è anche divisa, tipo Sud America. Sì. In Sud America i skinhead e i punk fanno a guerra fra di loro, si accoltellano pure, purtroppo, e io ancora non ho capito questa cosa. Però ognuno, diciamo, ha quello che vuole, potremmo dire. Per fortuna in Italia, diciamo che questa cosa dello skin versus punk c'è stato all'inizio. Poi man mano ha smesso di funzionare questo sistema, è diventato un sistema molto più unitario. Infatti questo gruppo, il Suburban Prowl, che alcuni membri fanno parte anche della crew, Mad Boot Boys, una crew di punk italiani che si occupano dell'antifascismo. Infatti sono stati i primi punk in Italia, diciamo il giro street punk, a creare una crew antifascista, perché la maggior parte, cioè non la maggior parte, scusate, una buona parte di questi punk della scena street punk italiana sono soltanto punk e moda, in poche parole. Capelli biondi, sparati, capelli colorati, eccetera, eccetera, vanno a farsi fighi ai concerti E poi per strada, nelle piazze, non li vedi mai, ma sono i cosiddetti figli di papà che si Che una fanno. volta arrivato a 30 anni, 35 anni, ti tagli la cresta e diventi una persona in giacca e cravatta, Esatto, giusto? un borghesino del cavolo, potremmo dire. Via, allora, prossimo pezzo su Boomerang Pro, Hug Your Pride. Thank you. Ebbene, questi qua erano, ripetiamo, i Suburban Provoke con il pezzo Hang Your Pride, preso dallo Split, scusate, Split, con il gruppo russo Young Way Streets, fatto nel 2014. Young Way Streets alla fine nella scena russa sono abbastanza importanti, perché esistono veramente pochi gruppi street punk in Russia, perché purtroppo la situazione russa è molto molto difficile da viverla. Ricordiamo che in Russia alla fine a livello di antifascismo c'è una piccola quantità, perché purtroppo la maggior parte dei cosiddetti skinhead, che poi alla fine sono bonehead del cavolo, insieme a diversi punk che se li vedi per strada dici tranquillamente no, questi qua sono dei punk normali, invece una buona parte sono dei punks not red, che punks not red a livello storico sono quei punk, se li vogliamo chiamare così, che hanno preso una posizione sulla destra, molto andate sul nazionalismo. Che a me questa cosa, a me e il mio collega qua, ci sta abbastanza sui coglioni. Assolutamente sì. Perché assolutamente sì. Alla fine il punk e lo skin nascono come due culture completamente apolitiche. Ma fondamentalmente, se andiamo poi al nocciolo della situazione, cioè la scena skinheads non potrà, dalle origini, non può essere catalogato con una scena di destra, in quanto la scena skinheads non sarebbe mai nata se non ci fosse stato il contatto tra la working class giamaicana, i rude boy giamaicani e la working class inglese, quindi bianco e nero che si uniscono, e It White and Black, che è una grandissima canzone ska, non ricordo adesso il nome della cantante, ma fatta per la Trocia Record nel 1968. E questo è il vero stile il vero programma dello skinheads. Cioè, lo skinheads è qualcosa di antirazzista, lo skinheads, essere skinheads è qualcosa di essere antipolitico, o meglio, essere antipolitico perché nasce come antipolitica. Nasce come qualcosa di ok, ce ne usciamo stasera, ci andiamo a fare una birra, andiamo a ballare ska e rocksteady. Poi sì. Gli eventi storici hanno portato a fare a far diventare lo skinheadaggio, passatemi questa parola, come qualcosa di destra, e poi effettivamente da persone che non ci stanno in tutto ciò, che non vogliono essere etichettate e che non vogliono essere passati come i razzisti di fondo, di diventare antirazzisti o di ribadire la propria provenienza. Esatto, esatto. Però purtroppo possiamo anche ringraziare i nostri grandi amici giornalisti, che alla fine hanno preso soltanto qualche coglione testa rasata che stava in qualche curva così a mano tesa, dicevano ecco questi qua che sono gli skinhead, che alla fine loro di skinhead non sanno veramente niente, perché di già uno con la testa rasata è già uno skinhead, invece non lo è. E giusto per parlare di coerenza e tutto quanto, andiamo al prossimo pezzo di un gruppo di Firenze, gli Attaccabrighe, con il loro grandissimo pezzo anche storico, che alla fine tutta la scena skinhead italiana loda e canta ad ogni loro concerto, che sono dei concerti infuocati. Esatto, esatto. E infatti vorremmo ricordare che sabato prossimo noi saremo lì sotto al palco. Esatto, ci sarà un grande festival. C'è un festival a Modena organizzato dai grandi amici dell'RLA. Esatto. Dove suoneranno i Colonne Infame, le Mele Marce, gli Attaccabrighe e Red Clan. Esatto. Io penso che sono quattro dei più grandi gruppi o i punk adesso presenti in Italia. Esatto, esatto. Anche se gli Attaccabrighe, diciamo, si sono riformati all'inizio per un nemmeno come sorpresa per il compleanno di Camilo Sanfuegos e per i suoi 15 anni, che è uno spazio che sta a Campi Bisenzio, in cui la maggior parte degli attaccabrighe sono molto... Anche se io c'ho un po' il dente avvelenato sulla colonna infame. Sì? Sì. Vabbè, quelli, diciamo, ognuno vuole quello che vuole avere. Però un grandissimo gruppo che vi faremo ascoltare poi in seguito. Esatto, esatto. Ora andiamo avanti con Attacca Vega, Tolleranza Zero, Radio Wombat, 1-3, Boots, 1-2. Vogliamo madre, c'è nessuna voglia, nessun motivo di aspettarsi, sei sotto pressione, la adrenalina sale. Questa notte, la nostra notte, questa notte, spazzeremo via. Questa notte, la nostra notte, questa notte, spazzeremo via. I miei veri nemici, so bene che ogni giorno mi apprezzi da tutti. Conosco bene il volto, chiusa il mio sudore, solo con il suo sangue si alleva la tensione. Questa notte, la nostra notte, questa notte, ti spazzeremo via. Questa notte, la nostra notte, questa notte, ti spazzeremo via. Tolleranza zero, se fai libero sicuro. Tolleranza zero, fascista contro il muro. Tolleranza zero, se fai libero sicuro. Questa notte, la nostra notte, questa notte, spazzeremo via. Bene, questi qua erano gli attaccabrighe e Tolleranza Zero. Attaccabrighe è qualcosa che viene proprio dall'interno, una band fiorentina. Esatto. E cioè, questo è una band rivolta a tutte quelle canzoni che pensano che la scena sharp sia qualcosa di assopita, no? Sì. Dopo sì. Degli inizi degli anni 90, dove c'è stato il clou della scena sharp. Questo album... che si chiama Attaccabrighe. Sì. E è l'album, secondo me, basilare per la scena sharp italiana. Sì, potremmo dire così, però vogliamo ricordare... Come canzoni, che ne so, Attaccabrighe, In mezzo ai guai, Respira quest'odio. Esatto. Sono canzoni basilari per lo sharpismo italiano. Sì, esatto, però qua si va a parlare all'interno di questo album, diciamo una linea molto politica, potremmo dire, cioè che si basa sulla coerenza del lavoro, eccetera, e cui Respira quest'odio alla fine, e anche Tolleranza Zero fanno molto capire. A me in particolare Respira quest'odio è la mia canzone preferita delle Attaccabrighe. Ma sinceramente preferisco molto di più Tolleranza Zero. Però vorrei ripetere una cosa che il mio collega non mi aveva fatto finire di dire, che gli Attaccabrighe alla fine, questo album Attaccabrighe, non fatta uscire nemmeno da più di tanto. Invece la prima uscita è stato lo split con le Mele Marce. Infatti vi consigliamo ripetutamente di venire sabato prossimo a Modena a vedere il concerto, perché le Mele Marce hanno detto di sì a questo concerto. Visto noi ci saremo e vi diamo anche una... Cosa? Sveglia? Ok, questa puntata sarà sempre birra, oie e divertimento, come la canzone dell'infami Los Fastidios, però siamo ubriachi. E quindi... collega, scusate. A Modena non ci saremo, la prossima puntata sarà comunque incentrata sul RLA di Modena, è la scena... Reggio Emilia. Reggio Emilia. Se dici che sono di Modena ti pestano. Di Reggio Emilia, scusami. No, che hanno detto sì per questo concetto, però dopo non risuoneranno più, perché il cantante, se non erro, sta a Cuba. E quindi da Cuba venire in Italia tutte le volte che c'è un concerto è abbastanza un problema. Solo per il rimborso spese, perché poi i concerti skin and funk così. Esatto. Poi vogliamo dire che gli Attaccabrighe alla fine sono tutti fiorentini, però sì, mi sembra che due di loro o uno sta a Perugia. Sì. La prima apparizione delle Attaccabrighe mi risulta che è stata fatta nel CPA, che sono stati chiamati questi quattro individuacci sul palco da Enrico de los Fastidios. A CPA? Sì. Sei sicuro? Sì, assolutamente sì. Io non saprei dirlo perfettamente questa cosa, sinceramente, visto che alcuni degli Attaccabrighe e più altri soggetti della scena skinhead fiorentina hanno fatto nascere la Sharp Firenze, sì, che era durata diversi anni e poi si è sciolta perché notoriamente non c'era più bisogno. Nel 1994 è nata la Sharp Italia, esatto, a Firenze. A Firenze, che alcuni dicono ma è nata Next Emerson, alcuni dicono è nata CPA, alcuni dicono è nata di qui, alcuni è nata di là, eccetera, eccetera. Da mie fonti risulta che è nata Next Emerson. Eh sì, diciamo che a Next Emerson c'era stato pure l'assemblea generale di tutta Sharp Italia, cioè delle varie crew Sharp italiane, fra cui la Sharp Milano, la Sharp Perugia e più altre Sharp che non ricordo, scusate, perché tutte le varie storie naturalmente vengono raccontate accompagnate dall'alcol e lì diciamo che la situazione vanno sempre a... Dai, buttiamo un'altra tunzo, vai, a posto. Gramenco. Ok, allora, il prossimo pezzo è di un gruppo che sono gli Obscene Revenge delle Marche. Obscene Revenge, This Is War, Radio Wombat, 1-3, Boots, 1-2. Fucking I love you, but it's too old. Bring my life. grandissimi, l'Obscene Revenge. Obscene Revenge si pronuncia. Vabbè, questo pezzo era This Is War. È un gruppo delle Marche. Uno street punk proprio grezzo, come piace a noi. Esatto, esatto. È un gruppo che alla fine non è nemmeno nato da più di tanto. È tipo 5 anni fa, se non erro, che ha avuto anche un cambio di formazione, che all'inizio erano soltanto i tre, poi erano diventati 4, poi i due hanno lasciato il gruppo e si sono uniti altri due. Che questo gruppo alla fine, come tutta la scena street punk italiana, che viene poco cagata, e io non riesco a capire nemmeno il perché. Vengono chiamate pochissime volte in Italia, però all'estero fanno delle date incredibili. Ad esempio, a fine settembre sono andati a suonare un festival tutto street punk a Berlino, che era un festival che durava 3 giorni. Che noi abbiamo sempre la stessa solita surf italiana, che quello che viene dall'estero è bellissimo, e quello che facciamo noi in casa nostra è una merda. Ma sì, dipende poi anche dalle zone, perché ci sono, diciamo, città e così che supportano la scena locale, tipo Roma. A Roma viene supportata molto la scena locale, o se andiamo anche più verso il nord, tipo Torino, o anche la città Perugia, che alla fine c'è soltanto un gruppo di Azione Diretta, che alla fine però vengono sempre sostenuti. Ogni volta che vanno a suonare da un concerto a un altro, tutti i perugini li seguono. Ad esempio, quando avevano suonato per la memoria di Dax quest'anno, eravamo su un bus insieme a gente di Attaccabrighe, alcune persone di Firenze, e più c'erano un fottio di perugini, ma davvero tanti. Infatti è stato un concerto della Madonna, accompagnato da altri gruppi. Però ora vogliamo rispostarci di nuovo nella capitale. L'Aida romana, l'Aida provincia romana. Esatto, esatto. Anche se in questo gruppo, che andremo a nominare a breve, è un gruppo misto tipo Roma e Viterbo, per quello che mi hanno detto, Quello che mi risulta anche a me. Esatto. Dall'Aida provincia romana. Esatto. Allora, il prossimo pezzo è di questo gruppo che si chiama i Bubble Champagne, quindi potete già immaginare che cultura c'hanno a livello musicale. Poi, se non sapete di quale canzone, di quale artista si sta parlando... Ve lo dico io? No, stai zitto, deve essere un indovinello. Fatemi una cultura, va bene? Prossimo pezzo, Bubble Champagne, Pirata, Radio Wombat, 1-3, Boots, 1-2. Andare col mio vegliano, gli anche bandiere da istare. questo è un altro gruppo che a me personalmente prende alla pancia. Questa è la prima puntata della puntata alla pancia, cioè quello che a me e a Gramenco piace ascoltare, quello che noi pensiamo che sia la discografia essenziale per lo skinhead punk o lo street punk italiano. E questo qua è la quarta traccia dell'album di Sangue tra i denti, esatto, dei Barbera e Champagne, dove c'è una chicca acustica all'interno che è stupenda. È un gruppo che effettivamente riesce a portare la carica emotiva dei testi con una carica potenziale sulla musica, cioè una musica molto diretta e spinta, che a me assolutamente piace molto, come piace tutta la scena della provincia romana, che è molto unita, e una delle scene più belle, a mio avviso, della scena skinhead street punk italiana. Esatto, esatto. Che poi, un'altra piccola curiosità, dei Barbera e Champagne, il cantante è lo stesso cantante del gruppo molto, molto conosciuto in tutta la scena skinhead italiana e non, di Automatica Aggregazione, sì, che è sì, un gruppo che ha segnato ogni testa rasata, ogni cresta che frequentano, diciamo, il nostro giro, che se non li conosce vuol dire, vabbè, va a casa e studia. Però poi dire, effettivamente adesso stiamo partendo con il rullo dei tamburi, cioè adesso metteremo un pezzo di un gruppo di Torino che sono la Banda del Rione, un pezzo che alla fine ha sempre segnato diciamo la scena torinese, sia a livello ultras, che skinhead, che a livello torinese la maggior parte sono collegati alla curva torinese, sia a livello, diciamo, mentale che fisico. Infatti, quando hanno fatto la riunione a Torino con apertura i ragazzi di Firenze, i Bobo 80 e Placcaggio, è stato un concerto in cui ha riunito la maggior parte della scena italiana, in cui c'erano di tutti, di più, dai romani, toscani. Infatti da Firenze era stato organizzato anche un bus per questo concerto ed è stata una cosa strafiga, veramente bella, veramente bella. E bene, poi dalle ceneri della Banda del Rione sono nati i Bull Brigade. Sì, esatto, però già da prima dei Bull Brigade c'erano gli Gang, sì, che era sì, un gruppo però molto collegato, diciamo, alla Rush, che anche se parlare di Sharp e Rush in Italia, cioè non è come parlare di Sharp e Rush a livello internazionale. Esatto, perché naturalmente l'Italia è fatto per conto suo, potremmo dire, sia a livello di attitudine, di spirito. Ha preso molto in prestito quello che è stato fatto dalle Sharp dei vari stati spagnoli, cioè quindi di paesi dove hanno avuto un regime fascista, esatto, perché effettivamente in Italia e in Spagna dire essere antirazzista dire automaticamente essere antifascista. Esatto, esatto. Infatti ora metteremo Banda del Rione con il pezzo Quale Destino per Noi. Radio Wombat, 1-3, Boots, 1-2. Boy! Pace ascolta noi, le mie bottiglie vuote, ancora intorno a noi. Insieme c'è voglia di cambiare, porta dentro al cuore che non finirà. Vita senza alcuna direzione, risultati senza possibilità. I tuoi pugni stretti nella notte, sarà la via finta di questa città. È una madre che ti aspetta sveglia e che si chiederà ancora. Qual è il destino per noi? Sotto i palchi dei concerti hardcore, sognando vite americane, strade rock and roll. Quanto tempo è passato, tu sei ancora qui. Nel giorno in cui hai giurato, non finirà così. L'incidenza hai voglia di cambiare, oltre il tuo cuore che non finirà. Busca senza alcuna direzione, da sfruttati senza possibilità. I tuoi pugni stretti nella notte, la vita di questa città. È una madre che ti aspetta sveglia e che si chiederà ancora. Qual è il destino per noi? Qual è il destino per noi? Qual è il destino per noi? Qual è il destino per noi? Qual è il destino per noi? Stupendo brano, esatto. Brano veramente stupendo, esatto. Cioè, con un testo con una carica fortissima, cioè la strofa quando dice una madre che ti aspetta sveglia e si chiederà ancora quale destino per voi, per noi, è stupenda, cioè uno dei testi più belli della scena skinheads italiana a mio avviso. Sì, alla fine è un gruppo che ha dato il suo, perché è stato anche uno dei primi gruppi a segnare la scena italiana con lo sprint oi hardcore. Infatti si definiscono proprio oi core, che come a livello musicale si sente proprio lo sprint molto veloce cui va a accompagnare l'hardcore. Che poi ricordiamo che la scena torinese, oltre alla scena skinhead, è stata famosa anche per la scena punk, in cui c'è ancora un bellissimo spazio del Paso, che è uno spazio che ha fatto suonare tutti i gruppi della scena punk italiana, dai Wretched ai Nerorgasmo e più a dire. Ora invece andiamo a prendere un gruppo in cui si ritorna sempre nella bella Toscana, in cui il mio collega sarà felicissimo a sentire questo pezzo, che è di un gruppo di Certaldo. Una sorpresa, sì, è il gruppo del mio cuore. Sono diventato skinhead ascoltando questo gruppo, che poi effettivamente questa band e Certaldo ha fatto, e ci ha dato il Teatro Tenda, stiamo parlando, ha fatto la storia di tutto il movimento skinheads, in quanto a Certaldo nel terzo raduno UI italiano, il primo è stato a Bologna e il secondo a Modena, se non sbaglio, il primo a Bologna e il Teatro Trenda, c'è un grandissimo gruppo di merda chiamato i Rip-Off, iniziano a diventare, a prendere un po' quelle che sono le redini delle Screwdriver, che faceva molto figo nella scena skinheads, a diventare quindi nazi. Quel concerto, il concerto a Teatro Tenda di Certaldo, è il concerto che segna la rottura all'interno del movimento skinheads italiano, tra quelli che erano i veri skinheads e quelli che non li sono più stati skinheads. E basta, sono un gruppo di Certaldo, persone bellissime, stupende, e soprattutto il nostro caro amico Now, che è grande persona, che anche lui sta raggiungendo un'età, non diciamo discreta, però diciamo portata che benissimo, esatto, cioè di corpo, potremmo dire proprio corpo da un po' comunque vecchietto, e più animo ancora da ventenne, assolutamente da ventenne. Cioè, se vedete Basta nelle vostre zone, catapultatevi al concerto, se non li conoscete. È storia, che poi Vorrei dire un'altra curiosità, e basta, hanno fatto uno split che ha segnato tutta la scena italiana. Assolutamente. Insieme al gruppo, che se non avete sentito, andate a sentire per bene, i Nabat, il gruppo storico di Bologna. Se parliamo di Basta e Nabat, parliamo dell'ABC dello skinhead italiano. Esatto, esatto. Sono stati i primi gruppi che hanno segnato proprio la storia o italiana. Che il bello di Basta, quando li metteremo a breve, li sentirete che hanno un suono bello grezzo, ignorante, come lo skinhead alla fine. Niente di hardcore, eccetera. Ora andiamo con il pezzo Basta Energia. Radio Wombat, 1-3, Boots, 1-2. Bene, questi qua erano i Basta Energia. Come avevo detto prima, era un pezzo molto molto grezzo, come la maggior parte dei pezzi del Basta. Pezzo del mio cuore. Ora il mio collega sta qui, sta quasi piangendo. No, effettivamente ho dovuto fumarmi una sigaretta e ascoltare questo pezzo. Cioè, energia mi dà sempre... Energia per fumare, non ho capito, scusa. No, energia per tutto. Sì, alla fine fa capire questo pezzo che a livello politico noi non abbiamo bisogno di persone che stanno... alti livelli, anche se brutto da dire, insomma, che stanno nel Parlamento italiano, che fanno proprio capire che noi skinhead o punk non abbiamo bisogno di nessun partito politico, ma abbiamo bisogno soltanto delle nostre energie, perché alla fine con le nostre braccia, le nostre gambe riusciremo a fare tantissima roba in futuro e anche nel presente, e come è stato già bene fatto anche nel passato. Ora andiamo un po' sul poetico, in cui andremo a mettere un gruppo interessantissimo, molto interessante, perché oltre a tutti i gruppi che abbiamo messo, in cui erano proprio precisamente o i core o street punk, invece questo gruppo è molto famoso nella scena romana e non, ma proprio la scena italiana, che sono gli ultimi. E perché dico che sono molto diversi rispetto agli altri gruppi? Come andrete a sentire, hanno un suono bello punk rock, anche un po' street potremmo dire, però con testi che ti vanno a toccare nel cuore. perché non sono i soliti testi cui raccontano noi siamo per strada, di cui di là, eccetera, eccetera, ma sono della sottospecie di poesie. Perché non ci dimentichiamo, noi skinheads sì, siamo sempre incazzati col mondo, ma siamo dei grandissimi romanticoni. Sì, esatto, esatto. Vabbè, a parte questa grande risata, andiamo col pezzo, gli ultimi, quelli come te, Radio Wombat, 1-3, Boots, 1-2. Questi qua erano gli ultimi. Stupenda band che è uscita a maggio con un album che si chiama 3x10. Esatto. Che io calorosamente dico a tutti gli ascoltatori di ascoltarlo. È presente anche su Spotify, quest'album. È stupendo, ci sono tracce come La luce e le tenebre. Sì, esatto. Che è veramente bello. E questo gruppo è abbastanza particolare, cioè a me, non so a te Graminco, ma a me danno molto dei Social Distortions, molto Ramones ci trovo all'interno, c'è proprio una bella attitudine punk fresca e genuina. Esatto, esatto, che poi alla fine l'ultimo album ha cambiato totalmente, diciamo, a livello sonoro di questo gruppo, sì. Perché l'ultimo album vanno proprio su rock, rock and roll, ma quasi pop, però con se un'attitudine fottutamente punk. Bellissima, una roba stupenda. Negli ultimi concerti che mi hanno detto i miei amici, eccetera, quando hanno suonato loro, e c'ero anch'io a un loro concerto, cioè la gente volava. Ho visto anche due persone una volta piangere dall'emozione, perché sono testi veramente profondi, una cosa unica nel... Perfetti. Genere. Forse effettivamente se un babbano, cioè una persona che non è skinhead, mi dice, senti, nenne, che cosa devo ascoltare per diventare forse skinhead o per capire quello che tu provi nell'ascoltare il punk music, io direi ascolta gli ultimi. Gli ultimi alla fine hanno sempre segnato perché sono nati nel 2011 sì. con l'album, proprio come si chiamano loro, Gli Ultimi, che poi dopo hanno sviluppato altri dischi, fra cui uno che è stata una genialata assurda, fatto con i loro amici Placcaggio Hardcore, in cui Placcaggio Hardcore sei per gruppo di Roma, però loro non si definiscono di Roma perché veramente, cioè non sono di Roma, sono di provincia, di Colleferro. Laida. E hanno fatto questa genialata di fare uno split assieme, ma che i Placcaggio fanno la cover degli ultimi e gli ultimi fanno la cover del Placcaggio, cioè è cioè una cosa unica. E poi la cosa stupenda, stiamo facendo sta trasmissione totalmente improvvisata. Esatto. Stiamo improvvisando sul momento. Abbiamo già sforato di mezz'ora, quindi buttiamo un altro paio di tunes. Sì, un paio di tunes in cui presentiamo pure anche l'altro senza problemi. L'altro sono nostri carissimi amici della provincia di Imola, Bologna, che sono i Diario di Bordo e sono delle persone stupende. E poi ieri era il compleanno del batterista. Auguri carissimo, auguri Giuseppe, grandissima persona. Infatti vi voglio raccontare una piccola storiella in cui quest'anno a luglio, se non erro, come ci sta ogni anno, giugno. Vabbè. E insomma, questi ragazzi dei Diario di Bordo, più la loro etichetta indipendente, Romagna Sgrozza, hanno messo su questo festival da diversi anni, in cui dura due giorni, che è completamente all'aperto, accanto a questo fiumicino. È un completo devasto. Sì, devasto. Campeggio 2000, cioè gente ubria, marcia. Cioè se vuoi bere, bevi, se vuoi andare al mare, vai al lago, al sì. fiume. È stupendo, è esatto. perfetto. E senti bellissima musica. Esatto, esatto. Infatti quei due giorni io e il mio compare abbiamo fatto veramente il schifo. Nostro... Esatto. Mi ricordo che ci eravamo organizzati per andare su insieme, poi... Ah, tra parentesi ho perso anche il come si chiama il coso? Il treno. No, quello dove dovevo dormire, il... Ah, il saccappello di Gramenco in quella situazione. Esatto, ci eravamo organizzati per andare insieme, poi il mio collega ha avuto dei problemi, quindi io sono andato per conto mio, lui ci ha raggiunto dopo, e ho dovuto disturbare il batterista di questo gruppo per andarlo a prendere. Che mi è venuto a prendere in macchina, ragazzi. Esatto, che abbiamo fatto mezz'ora di macchina, cioè mezzo ubriachi. Come una roba assurda. Poi dopo abbiamo raccattato. Lo voglio tanto, tanto. Abbiamo raccattato anche due nostri amici per strada. Che loro si erano fatti tipo 40 minuti di piedi per andare a mangiare al ristorante. Penso che ci stiano ascoltando. Spero sì. Tony Carcassa da Roma. Esatto, grande. Il grande abruzzese. Esatto. Dai, ora andiamo con il pezzo. Scusate se siamo andati un po' troppo sulle lunghe. Con il Placcaggio, l'Araba. Scusate, l'araba finisce. Radio Wombat, 1-3, Boots, 1-2. E questi erano in placcaggio con l'Araba Fenice. Questo gruppo ha segnato proprio la storia dello italiano, per il semplice motivo che loro non si definiscono oi, si definiscono oi black metal. Una cosa veramente assurda, perché il cantante e il bassista Chris hanno questo bello sprint di metal, infatti sono anche fan degli Iron Maiden, cioè quella scena skinhead non c'entra niente, però cazzo, hanno fatto la loro, diciamo, la nostra scena, e anche molto. Infatti c'hanno anche diversi progetti, come uno si chiamano i 666, che sono a cover band degli 883 in chiave meta, una cosa veramente stupendo, assurda. Guardate, I fottuti siamo noi, no? Esatto, esatto. Che di fatti i placcaggi hanno fatto poi una cover degli 883, gli anni, che l'hanno fatta però la loro versione proprio skin e punk. Poi se vi va, andatevi a sentire, o come facciamo noi di solito, andate a supportare ai concerti sotto. Perché scusate, sotto il palco. Oltre a parlare, cioè, è bellissimo il punk, farlo, cioè ascoltarlo mediante le cuffie, ma il punk è qualcosa che bisogna, il punk e lo skinheads è qualcosa che bisogna viverla all'interno del, cioè andando ai concerti, supportando la scena. Quello è la bellezza dello punk, cioè scoprire la carica dei gruppi. Esatto, esatto. Poi vorrei ricordare anche di un vecchio progetto che ha avuto il cantante Gabriele, insieme al cantante dei Coloni Infame, che erano gli 80s. Alla fine era un gruppo cover band, potremmo dire. Facevano tutte cover dei pezzi storici, e che andavano tantissimo, perché per un periodo alcuni gruppi non suonavano, quindi credo che si sono detti, ma facciamo rivivere noi, diciamo, quegli anni d'oro che abbiamo passato ai giovani della strada. E ora andiamo con l'altro gruppo che abbiamo detto prima, il Diario di Bordo. Che la bella curiosità di questo gruppo che due di loro sono pugliesi. E gli altri... Ma pugliesi veraci, proprio. Esatto. Fino al midollo. Esatto. E gli altri sono di Imola, quelle zone lì. Però ora tutti abitano in quelle zone. E poi il cantante Max, che vorrei salutare pienamente, grandissima persona, aveva avuto anche un progetto di un gruppo storico pugliese, che erano i Blood Pact, un gruppo che alla fine ha fatto il suo nella scena pugliese. Che ma quando parecchio. Faremo la puntata sul punk del Sud Italia, sicuramente ci saranno. Esatto, esatto. C'è un gruppo che alla fine ha segnato. Che vi consiglio andare a sentire. Poi vi volevo consigliare anche un bel sito che si chiama Punk for Free, che è un sito completamente italiano sulla scena oil punk, hardcore, narcopunk, eccetera, eccetera, italiana e anche non. Ve lo consiglio perché lì potete scaricare direttamente i vari album dei vari gruppi della scena. E più potete vedere anche i vari flyer, eventi che vengono pubblicizzati in Italia. Perché alla fine, ok, che esistono i social network come Facebook o Instagram, eccetera. Però lì è nato come una situazione di bisogno di sapere dei concerti per via web. Infatti, qualche volta ci do un occhio anch'io. perché merita, merita. Dai, parecchio. Facciamo sentire Diario di Bordo. Diario di Bordo, la nostra rotta. Radio Wombat, 1-3-1, Boots, 1-2. Del nostro mare pieno di guai, lungo una rotta che di pace non ha avuto mai. Abbiamo inventato mille cori per tenerci su, disprezzato chi ha mollato e non ci segue più. Ha soffiato venti infami sulle nostre vele, dura ma la direzione era da tenere. Abbiamo sofferto sempre denti alla vecchia maniera, difeso con pugnale e cuore la nostra bandiera. Un'altra volta, questi qua erano i Diari di Bordo, La nostra rotta, che è un pezzo preso dall'album Sindrome Pirata. Stupendo, album stupendo, a mio avviso. Sì, sì, veramente. Noi non mettiamo roba schifosa, mettiamo soltanto roba stupenda. Sono cose che ci piace a noi. Esatto. Cioè, è no. Qualcosa di egoistico. Cioè, vi facciamo ascoltare cose che a noi piacciono. No, vabbè, noi esageriamo. Catena. Però alla fine la scena è quella. Siamo pochi e cerchiamo di supportare quel che è più possibile supportare. Colgo l'occasione e... salto le frontiere, vorrei salutare il mio caro amico Matt, con un cognome impronunciabile polacco, Warzbad, tipo del genere, che è veramente uno degli skinheads più genuini che abbia mai incontrato sulla mia vita. È veramente una persona stupenda. E a voi vi indico di seguire un blog che si chiama Crisis Like Knives. È un blog interessantissimo per quanto riguarda la cultura skinheads e in particolare sul dressing dello skinheads. Sì, sì, alla fine è anche un blog molto famoso perché il nostro caro amico Flavio di Viterbo, ex cantante Razza Parte, ha scritto un libro veramente interessante e ve lo consigliamo a tutti di andarvelo a leggere o di andare a vedere direttamente la sua presentazione, che si chiama Italia Skins, che alla fine è uno dei pochi libri che racconta la scena italiana skinhead, partendo naturalmente dalle origini inglesi, che alla fine poi è anche un libro particolare perché non lo mette su una scena politica, lo mette... Assolutamente sì, dopo il libro di Pedrini, il chitarrista dei Nabat, che ha scritto un paio di libri sugli skinheads, il libro di Flavio è l'unico libro che effettivamente crea una differenza tra all'interno di che cos'è lo skinheads. Cioè, i bonehead, gli skinheads di destra non vengono assolutamente presi in considerazione in quanto non facenti parte del movimento, e io sinceramente prendo questa posizione al 100%. Esatto, la prendo anch'io, perché alla fine il nostro movimento non si occupa di razzismo e di pestaggi con le lame, fare infami. Infatti volevamo ricordare che anni e anni fa era stato ucciso un compagno, Dax. Davide Cesare, un militante del movimento Lotta per la Casa a Milano, e era stato ammazzato per appunto da due bonehead, e con questi due bonehead c'era pure il padre di questi due bonehead. Alla fine la scena, scusate se dico scena, però purtroppo la scena nazi ci sta pure in Italia e sta prendendo il sopravvento in una maniera incredibile, che purtroppo non dovrebbe andare così, purtroppo sta andando così. Poi in futuro vedremo come potrebbe andare, sperando nel meglio, come sempre. Pensiamo nel presente e continuiamo a pestarli come tutti i giorni. Sì, esatto. Poi il prossimo pezzo è di un gruppo street punk che sono il Pubblico Oltraggio, che sono rispuntati da poco, dopo un anno di pausa, sì, che dovevamo rielaborare il prossimo, cioè questo album che hanno fatto uscire, che io purtroppo non mi ricordo il nome perché purtroppo non ho avuto il tempo di segnarmelo, però mi ho visti qualche anno fa a Parma e sono veramente una cosa assurda. Infatti è un pezzo che parla proprio dei modaioli che prendono anfibi, si fanno la cresta, mettono il giubbottino in pelle con qualche top di gruppi che nemmeno loro conoscono i testi di questi gruppi. E poi arriviamo a 30 anni e abbiamo l'impressione del papà. Esatto, esatto. Questo pezzo è tratto dall'album Ready to Fight del 2007, che a mio avviso è un album completamente street punk, sì, perché proprio segna lo sbilanciamento fra il punk modaiolo e il punk militante, che alla fine c'è bisogno anche di questo, diciamo, ce n'è veramente bisogno, perché purtroppo in Italia è nata da qualche anno anche da Punks Not Red, che ripetiamo sono i nazi punk italiani e non, che purtroppo stanno in giro e fanno i loro concertini nazi a Milano e non, va bene, con musica di merda. Esatto, eh? Esatto, perché la maggior parte dei gruppi nazi fanno veramente cagare a livello musicale, veramente. Sembra che abbiano preso lo strumento e hanno detto vabbè, io so suonare. No, te non sai suonare. Porca puttana, per suonare il punk di merda ce ne vuole. Esatto, cioè il punk alla fine basta che fai una canzone con quattro accordi e scrivi il testo che ti viene dal profondo del cuore, di quello che hai vissuto, quello che vuoi vivere. Va bene, noi vogliamo chiudere, diciamo, in bellezza con questo pezzo che dura 1 minuto e 32 secondi, proprio punk vecchio stile. Sì, poi parlerò dei Pubblico Oltraggio perché li amo. Parla ora. Ok, i Pubblico Oltraggio fanno sto album, si chiama Ready to Fight, del 2007, dove c'è la cover di un pezzo che a me è molto carico, Oxparrer, cioè anche se può interessare la calamita sul frigorifero, esatto. Che si chiama Where Are They Now? È uno street punk molto grezzo e tirato, anche se all'interno dell'album Ready to Fight ci sono anche molti pezzi lenti e cadenzati. Cioè è un album abbastanza particolare che io consiglierei a tutte le persone che vogliono avvicinarsi alla scena skinhead punk. La farei ascoltare adesso. Sì, ora andiamo con questo pezzo, però prima vi volevamo salutare, anzi volevamo ringraziare per la vostra pazienza, per averci ascoltato e aver sentito i nostri latrati, esatto. Per un'ora e mezza ci siamo dilungate anche tantissimo. Esatto, la prossima diretta che faremo è domenica prossima, e cui porteremo la scena reggiana, e vi garantiamo che sarà molto più organizzata rispetto a questa trasmissione. Esatto, ci dispiace per gli eventuali errori che sono stati fatti. Cagate. Esatto, però vi vogliamo ricordare che per ascoltare i podcast di questa puntata, più le altre puntate e le altre trasmissioni di Radio Wombat, potete andare sul sito wombat.noblogs.org, o se no, se avete pure Twitter, twitter.com/radiowombat.fi o Facebook, che tanto oramai tutti i giovani, cioè tutte le persone hanno Facebook, facebook.com/radio_wombat_Firenze. Lineetta, che cos'è tu? Graminco, che cos'è la lineetta? La lineetta normale. Slash basso a slash metà. A metà. Ah, ok, a metà, slash a metà, siamo ignoranti come la musica che facciamo ascoltare. Esatto. O se no, se ci volete infamare, dire che non siamo competenti per stare in una radio e così, potete... Non mi fate vedere per strada. Oltre a quello, potete infamarci scrivendo sulle mail posti a wombat@insiberia.net. E ora andiamo con il Pubblico. Dove andremo noi dopo questa puntata? In Siberia ci manderanno. Esatto. E vi ringraziamo ancora, tenete sott'occhio questa trasmissione, perché ci saranno delle belle in futuro, molto più organizzate. Questa qua è Radio Wombat, trasmissione 1-3, Boots 1-2. E vi ringraziamo ancora per la pazienza. Pubblico Oltraggio, con noi non hai a che fare. Questo era il nostro ultimo brano, e con Modaiolo Vaffanculo vi vogliamo salutare. Esatto. Questa era Radio Wombat, questa è 1-3, Boots 1-2, e E a tutti rivitiamo, cioè, rinvitiamo di nuovo a partecipare al concerto a Reggio Emilia sabato prossimo. Io partirò col treno. Qualcuno che si vuole legare a me, tranquilli ragazzi, ci sarà uno zaino pieno di birra. Esatto. E più vario disagio. Cioè, ricordiamo che ci sono l'Attaccabrighe, le Mele Marce, Riot Clan e Colonia Infame. Colonia Infame, Colonia Infame. È un concertone, ragazzi. Esatto. Poi prossima settimana, se purtroppo non potete venire, eccetera, vi faremo ascoltare le canzoni di questi gruppi, va bene? E vi daremo anche una recensione del concerto in base alle nostre condizioni psicofisiche, perché penso che arriveremo all'ora della puntata domenica, verso le 2:30, 3. Io spero di no, guarda, cioè spero di tornare vivo al concerto. Va bene, grazie ancora per la pazienza, buona domenica. Ah, vorrei fare un saluto a Casa Disagio, che è la mia casa, e dove i miei coinquilini mi stanno ascoltando alacremente, e ringrazio anche un'altra mia coinquilina di cui non faccio il nome, ma che gentilmente mi ha accompagnato in scooter per fare questa diretta radiofonica. Esatto, grandissima. Grandissima. Vai, ora leviamo il disturbo e scusate. Ci leviamo dal culo. Esatto. Facciamo come i Baglioni. E buona domenica e buonanotte. Questa qua era Radio Wombat. 1, 3, Boots. 1, 2. Oi. Oi.